YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a RadioTube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e anche il perdibile, questa volta ce ne abbiamo di perdibile, della settimana tra TV, Web TV, Social TV, tutto quello che ha fatto scatenare il mondo del web e che anche in questa settimana, in questa puntata, promettiamo di non chiamare popolo della rete. Non lo faremo. No, ma questa settimana, oltre a non poter dire popolo della rete, non possiamo dire il numero di questa fantastica puntata. Non diciamo un numero? Non lo possiamo dire, quello prima del 18 dopo il 16, però invece ricordiamo quelli che sono i nostri account, perché l'altra volta l'abbiamo fatto poco. Poco. @ Marta Cagnola. Yes. @ D Bellasio. Altrettanto yes. E soprattutto cancelletto Radio Tube. Dopo voi subito potete mandarci delle segnalazioni. Questa puntata non ce ne voglia Pier Silvio Berlusconi, si parla di... Si parla non benissimo di... Non benissimo di... Mediaset. Non parliamo bene di Mediaset. Non è colpa nostra. Liberale, tanto. Non è colpa nostra. Allora, no. Sono successe alcune cose che hanno fatto un po' discutere per quanto riguarda Mediaset. Eh sì, hanno fatto per arrabbiare anche i vertici dell'azienda. Eh sì, perché intanto da cosa partiamo? Dalle Iene? Iene, che già si chiamano Iene. Già si chiamano. Poi era successo insomma un po' di confusione per il metodo Stamina. Diciamo confusione. Ecco, forse sono argomenti troppo adatto. Delicati per... Anche per noi. Per noi, cioè, argomenti molto delicati. Però, insomma, il ritorno delle Iene era già un po' sotto la lente di ingrandimento. Ma cosa hanno combinato questa volta le Iene? Hanno fatto arrabbiare un personaggio che Daniele Bellasio ama moltissimo. Sì, perché secondo me la domenica sportiva condotta da Paola Ferrari è rassicurante. E poi hai detto, è anche una bella donna, basta, sei... Sì, beh, questo assolutamente, ma soprattutto conduce bene, sorriso, cioè voler essere più belli di quanto si è, secondo me è una forma di altruismo, che non mi starà mai antipatica, quindi io veramente non capisco. A dire la verità, questo è uno scherzo, non ho capito bene. Allora, c'è uno dei personaggi delle Iene, sì. A me lui non fa proprio tanto impazzire, lo trovo un po' volgare, però vabbè, forse non sono nel target, forse sono troppo vecchia. Lui cosa fa? Il twerking, sai cos'è il twerking? Ma perché? Io te lo posso anche mimare, ma in radio non si vede. Ma gliel'hanno detto pure a Renzi, basta con le parole inglesi straniere. Lo stalking, no? Cos'è che è? No, il twerking è uno sculettamento, una danza sculettante. Ah, sì, è quella della tua amica Miley Cyrus. Sì, quella, certo, che le quella sopra martelli. Lì, the rocking ball, ecco, the wrecking ball. Questo personaggio, che appunto a me non fa particolarmente ridere, fa questo twerking agitando le chiappe attaccato a dei personaggi con una strana parrucca. Insomma, i personaggi però insomma dovrebbero lo conoscono tutti. Paola Ferrari evidentemente però non lo conosceva e c'è rimasta male. Non solo c'è rimasta male, di più. Allora, lei era praticamente all'ingresso della sede Rai di Milano, no, a Corso Sempione. Lei sosteneva di essere stata spinta da dietro da questo attore, schiacciata verso le porte d'ingresso della sede Rai. Il vice direttore sport Maurizio Losa scrive: è riuscita a stento a divincolarsi pensando fosse un tentativo di aggressione, visto che questo personaggio la strusciava da dietro. Una volta entrata nel palazzo è svenuta, rimanendo sotto shock per diverse ore. Questo noi non possiamo sapere, non eravamo lì. Però il video c'è. Sì, il video c'è, effettivamente non è proprio una spinta, però se uno non conosce quello che accade in questi casi, come facciamo a farlo vedere alla radio? Proviamo a farlo vedere, non è comprensibilissimo. Adesso vi spieghiamo perché. Non c'era granché da vedere. Non c'era granché da vedere. Ecco qua il video che vi mostriamo alla radio. Vediamolo. Paola, posso chiederti una cosa? Una domanda velocissima. Allora, intanto c'è questo personaggio che dice: posso chiederti una cosa? La distraggono un po'. Sapete perché la qualità non è proprio una qualità audio? Anche video, il video non era un granché. Non era granché. È perché in teoria questo video non doveva essere trasmesso. Poi, insomma, prima è stato diffuso via Facebook, poi le Iene l'hanno mandato in onda e pensate forse che sia finita lì. E no, poi si è scatenata Twitter. Sì, su Twitter è facile andare a vedere quello che è stato detto. Ah, ma tu vuoi proprio leggere quello che è stato detto? Ma certo, perché se le sono date via Twitter. Declino ogni mia. A un certo punto. Sì. La Ferrari ha la Blasi e Mammucari hanno definito la Ferrari acqua, stucco e sapone. Non è carinissimo. Allora, la Ferrari ha twittato: sarebbe troppo facile rispondere alla signora Blasi ai suoi insulti e alla sua bassa ironia, troppo facile. Poi ha postato una sua foto, eccola la donna con lo stucco in faccia e qui, a differenza di altri casi, è tutto naturale. E poi a un certo punto, Principe Azzurro. Dai, e Principe questo Azzurro. È bellissimo, lo devi riconoscere. Tu sei un uomo romantico, io non sono una donna romantica. E questo è un gesto straordinario. E chi è arrivato via Twitter? Chiocciola De Benedetti Mrco? È il marito che ha scritto, lo posso dire, c'è una parolaccia. Siete avvertiti, sto per dire una parolaccia. Parenti, che è il papà delle Iene, sei una merda umana, il servizio che hai mandato in onda alle Iene Show è semplicemente vergognoso. È Twitter. È Twitter, e Twitter e i Vips se sì. Le danno di santa ragione. Ma non sì, è successo ma i Vips ormai ma devono senza dare... filtro. Tu lo, me lo dici tutti i giorni, ragazzi, diamo ai Vips delle regole perché ormai... Io lo dico, devono stare tu un po' attenti. Dovresti scrivere un libro su questo. Sei il Galateo. Lite via Twitter. Ecco, il Galateo della lite via Twitter. Non è l'unica cosa che però è capitata a Mediaset questa settimana. Accidenti. Accidenti. Barbara D'Urso. Sì, Domenica D'Urso. Live e parliamo di Sciascio. Sì, ecco appunto. No, no, allora, noi non parliamo di Sciascio. Lei ha parlato tanto di Sciascio. Anzi, posso farti subito vedere l'introduzione? Si vede pure qualcosa alla di domenica radio. Pomeriggio. Si vede alla radio l'introduzione di Barbara D'Urso a Domenica Live. Allora, vedrete tante cose oggi, davvero, cioè ho scoperto anche io, cioè, occupandomi di questo talk, di delle cose che riguardano il sesso e le, fra virgolette, perversioni, ovviamente siamo in fascia protetta, abbiamo anche chi ci bacchetta e quindi saremo molto molto attenti come sempre, però ho scoperto delle cose veramente incredibili, vedrete delle cose che insomma ieri... Noi siamo qui fino a circa l'una di notte il sabato a vedere tutti quanti i servizi. Ho visto dei servizi, devo dire, molto particolari. Andiamo però, ripartiamo. Ah, scusate, c'è in collegamento da Rieti, dove ha partorito la suora, la nostra inviata Alessandra Borgia, che insomma, che poi ci racconterà. Buon pomeriggio. Poi ci racconterà la Borgia, appunto, come sta il neonato. Cioè, l'ospedale vabbè. È minestrone, tutto dentro. E però con tutto questo Sciascio c'era la clinica per i malati di Sciascio, i parcheggi dell'amore, la donna poliamorosa, insomma Pier Silvio Berlusconi deve essere venuto un mancamento, basta, perché vabbè, lettere del Moige, sempre tutto. Pomeriggio. Sì, lettere del Moige, proteste, pare che Pier Silvio Berlusconi si sia un filo arrabbiato. Rieccoci insieme per il secondo blocco del nostro RadioTube e abbiamo una domanda che ci poniamo sempre, Daniele. Sì, che ormai ci perseguita le nostre notti, le nostre esistenze. Il talk show politico è vivo o è morto? E io ne parlerei questa puntata. Cosa ne pensi, Daniele, di parlarne con uno dei protagonisti? E infatti abbiamo al telefono, a me piace molto dire abbiamo al telefono. E ce l'abbiamo davvero? Alla grande. Corrado Formigli, buonasera. Buonasera a voi. Corrado, allora la domanda che noi ci poniamo sempre a RadioTube è: ma il talk show politico è vivo o è morto? Allora, chiederlo a te, insomma, mi sembra che la risposta sia abbastanza scontata. Sta bene il talk show politico? È una domanda un po' stantia, nel senso che è parecchio. Vivo e vegeto, insomma. È un tema ricorrente. Il reality è vivo e morto, il talk show è vivo e morto. Ma come mai nessuno si chiede mai se l'inchiesta giornalistica, non so, alla Report, alla presa diretta, è viva o morta? Cioè, che vuol dire? Se dovessimo basarci sugli ascolti e basta, dovremmo dire che in questo momento i talk forse sono più vivi di certe inchieste giornalistiche, ma non è questo il punto, dipende sempre un po' dalla controprogrammazione. Ce ne sono tanti, ce ne sono forse troppi, quello sì, ma comunque vivi senz'altro. Però sicuramente c'è bisogno di cambiarli un po', tant'è vero che Piazza Pulita è un esempio in questo senso, per dire i tuoi ospiti sono spesso ospiti particolari, non so, Freccero, Aldo Busi, Contarello, c'era addirittura l'ultima puntata, cioè, quindi si parla di politica a Farinetti, anche con personaggi diversi da quelli che ti puoi aspettare, quindi vuol dire che comunque un cambiamento è necessario. Ma guarda, un cambiamento c'è stato, perché se noi guardiamo i parterre dei talk show, diciamo dalla caduta del governo Berlusconi, poi il periodo di Monti, dei professori fino ad oggi, indubbiamente diciamo l'accelerazione della caduta della Seconda Repubblica ha imposto ai talk di rinnovarsi, perché di pari passo con la caduta diciamo di quel governo poi c'è stato anche un pochino il rifiuto da parte del pubblico delle solite facce televisive. Se ci pensi, oggi è impensabile o quasi fare un talk show con la Russa, la Bindi, no, le facce che semplicemente dico un anno e mezzo fa, due anni fa, erano molto richieste, molto gettonate, no? Erano ospiti di prima fila. Oggi è praticamente impensabile fare un talk con loro. Quello che è successo nell'ultima puntata, c'era Contarello, sceneggiatore della Grande Bellezza, a un certo punto Carlo Freccero si è accalorato e gli ha dato della persona poco intelligente, ma qualche istante prima era successo anche questo, che è diventato particolarmente virale. Sentiamolo insieme. Mi lasci parlare? No, però, mille partiti, vabbè, allora, ma non mi che lo so io. Non ho mai creduto al bipolarismo, è un'invenzione tua. Sei tu che sei berlusconiana. Vittorio, Vittorio, è il tuo pensiero, è chiaro. Ti prego, mi fai sentire un attimo Freccero. Grazie. No, io purtroppo sono molto antico, sono novecentesco. Credo ancora alla differenza tra destra e sinistra. Snob. Assolutamente. Passo. No, aspetta, no. Mi lasci parlare. No, dimmi, Renzi è destra o sinistra? Renzi è destra o sinistra? Destra. Destra, eccoti qua. Allora che cazzo dici? È destra. Sta a sinistra, ma è di destra. Oh, quello che sto dicendo di da un'ora. Porca puttana. Corrado, tu aplomb totale, qui parolacce che cadevano come proiettili. Mi è scappato un sorriso. Infatti, modo di condurre di Corrado Formigli, se posso permettermi un complimento in diretta, è proprio questo. La postura del corpo, il sorriso che scappa in modo naturale, è un modo di condurre che avvicina il telespettatore a quello che sta accadendo in trasmissione. Ho un altro video virale di questa settimana e poi chiederei anche a Corrado cosa pensa di questa viralità, però lo guarderei insieme a voi alla radio. Guardiamo. Perché ecco cosa è successo invece quando il ministro per le politiche agricole Nunzia De Girolamo è stata intervistata dalla giornalista Francesca Biagiotti proprio per Piazza Pulita. Ma hai detto Michele a Zaccaria Spina che è sindaco Udera, toglietegli tutto, ha mai detto questa frase? Zaccaria Spina, persona con cui io interloquisco da sempre, perché è un sindaco di un comune di 600 abitanti, ha l'ambulanza nel suo territorio. Senza quindi medico. Non è giusto quello che dice lei. Senza questo medico. Non dipende da me. Ma lei pensa che io possa decidere... a questa domanda. Lei ha detto mai questa frase? Ma lei pensa che io posso decidere una cosa del genere? Guardi, e comunque io... Non mi ha risposto alla domanda. Io le ho concesso questa intervista. Però se la... deve diventare un interrogatorio, io penso che l'intervista può finire qua. La ringrazio tanto per l'attenzione, non mi ma visto rispondere. Che lei mi vuole mettere sotto processo, non lo consentirò né a lei né alla Sette. La ringrazio e le auguro buon lavoro. Non ha risposto alla domanda, e mi auguro che in futuro i direttori generali li nominino per concorsi ed esami. Questo le sfido a trovare un primario nominato da me, ma guardate gli altri primari da che sono nominati. Però le sfido a trovare una ditta cosa? Che ho aiutato io. Vediamo le altre. Ma questa cosa del 118 già è un po' strana, i voti del PD. La magistratura è molto attenta. Arrivederla. Ecco qua, insomma, un video diventato virale, un video particolarmente interessante. Corrado, ma tu ti interessi di quando poi un video viene condiviso molto in rete, poi finiscono sui siti dei quotidiani? È un sintomo del successo anche questo, che almeno qualcosa che coglie particolarmente nel segno? Beh, insomma, intanto la colgo una contraddizione, perché spesso ci sono sui grandi giornali c'è qualche solone che alza il dito contro i talk show dicendo che insomma i talk show, le risse televisive, le discussioni, non si capisce mai niente, eccetera. Dopodiché quando tu provi a rilanciare un'inchiesta seria, come noi ne abbiamo fatte tante, penso a una in particolare sulle truffe, sulle casse integrazioni al sud, una bellissima inchiesta della nostra Laura Buonasera, non siamo riusciti a pubblicarla su nessun sito di nessun quotidiano, eppure era appunto una notizia seria, un'inchiesta strutturata. Ogni volta che c'è, come dire, un pezzo invece vivace, di scambi divertenti, uno che se ne va, sbatte la porta, eccetera, immediatamente i siti te lo pubblicano, no? Noi siamo talk show, vuol dire che c'è la parola, c'è anche lo show, cioè c'è anche un elemento di intrattenimento. dentro un talk show. Però bisogna stare molto attenti al mix, secondo me, no Marta? Cioè il punto è questo, tu hai fatto sentire adesso la De Girolamo che a un certo punto di fronte a una domanda assolutamente legittima su una notizia che avevamo si alza e se ne va anziché rispondere. Peraltro anche fatto in modo tutto sommato cortese. Uno scambio invece diciamo vivace tra Freccero, Contarello e Sgarbi. Ecco, secondo me il mix giusto quando riesce, a volte non ci riesce affatto, non voglio cantarmela a suonarmela, però in quella puntata secondo me è riuscito. Il mix giusto è quello di cercare di mettere le notizie, l'intervista aggressiva accanto a un momento invece di scambio di idee magari divertente e vivace, no? Al limite anche un po' oltre, no? A volte un po' show. C'è poi un periodo storico particolarmente interessante e drammatico che è quello che stiamo vivendo, la crisi. Tra l'altro tu sei da poco in libreria con Impresa Impossibile, nel quale tu hai raccontato le storie dei piccoli e medi imprenditori onesti che definisci i nuovi eroi italiani. Nell'ultima puntata c'è stata un'inchiesta che io ho apprezzato particolarmente, e non solo per campanilismo, perché riguardava la Brianza e io sono brianzina. E perché l'autore è bravissimo. Perché l'autore è bravissimo, siamo tutti fan di Sortino, team Sortino. Un altro frammento di audio di questa inchiesta veramente bella, eccola qua. Vediamo le ricette dei brianzoli, perché Alessandro Sortino è tornato nei luoghi di Paolo Virzì a raccontare la Brianza, a modo suo ovviamente, vediamo. Entri nelle fabbriche a vedere che fabbriche che c'hanno, sono splendori. Cioè proprio un amore in qualche modo. È l'amore alla fabbrica, far vivere bene il dipendente. Quando uno arriva al mattino alle 8 o alle 7, non deve dire e vomo lavorà. Ma tu l'ami questa terra? La Brianza, l'ami? Sì, a me piace molto la Brianza, infatti come dico sempre quando si parla di morire, no? Uno dice ah ma io qua non ci muoio, no? Io invece dico no, perché? Dico io o muoio qua o muoio veramente lontano. Non potevano mettere il mio concittadino, il mio compaesano e Mischilla, che cioè, dai, un a po' me di... il film non è piaciuto per niente, per esempio. Ah, eccolo qua, ancora sulla quindi sono contento che si vada a raccontare. Ma sì, perché appunto raccontare è importante anche al cinema. Corrado, tu che poi appunto hai questo sguardo in particolare in questo periodo, lo dicevamo anche con Impresa Impossibile, sulle storie della crisi, della ripresa, è un periodo storico in cui la gente comunque ha voglia di sentire parlare di questi temi e probabilmente è più preparata che in passato, non si possono raccontare molte bugie. Guarda, intanto fatemi dire subito a proposito del frammento che avete fatto sentire che Alessandro Sortino è davvero incarna, secondo me, la modernità del nostro mestiere, cioè il vero autore inviato postmoderno, no? Che riesce a mischiare quei linguaggi, cioè avere la profondità senza mai perdere la leggerezza. Però in generale, torniamo sempre lì, il talk non soltanto è vivo quando si pone il problema di superare certi stereotipi e certi schemi. E arriviamo ai miei imprenditori, gli imprenditori dell'impossibile. Questo libro nasce proprio dopo due stagioni in cui abbiamo raccontato la tragedia dei suicidi, degli imprenditori che non ce la fanno, delle aziende chiuse. E a un certo punto queste storie non bastavano più. E quindi da lì è nata l'idea di fare un libro che non ha niente a che fare con il mio programma, nel senso che io ho fatto l'inviato, sono tornato a fare l'inviato, che poi è il mestiere che ho fatto per tantissimi anni, che mi manca da morire, e sono andato facendo l'inviato in cerca di queste storie per cercare un segnale positivo. Noi che siamo un po' cattivi però su questo argomento non possiamo, ci sarebbe da discutere sul fatto se servono ancora gli inviati, quanto servono, come servono e soprattutto quanto la rete ogni tanto ci dà la sensazione, probabilmente sbagliata, che non abbiamo più bisogno di andare a vedere direttamente le cose perché sentiamo un rumore delle cose su Twitter, sui social network che ci satura. Sono pienamente d'accordo con te, Daniele, nel senso che non è sostituibile quel lavoro lì dell'inviato. Noi siamo entrati in un'idea che alla fine la rete sopperisca tutto, che noi ci connettiamo e vediamo la realtà come se fossimo lì. Non è così, non è così, a parte che spesso la rete trasmette con una certa superficialità, per cui io da questo punto di vista trovo che sia essenziale continuare a fare questo mestiere, e gli inviati sono fondamentali. Nel mio programma gli inviati ci saranno sempre. Ah, sì. E non soltanto, noi cerchiamo sempre di dedicare un minutaggio robusto, diciamo, alle immagini, al racconto, al viaggio, all'approfondimento filmato, perché altrimenti il talk secondo me si inaridisce. Grazie, grazie di essere stato con noi a Corrado Formigli, Piazza Pulita. Ricordo anche il libro in questi giorni in libreria, Impresa Impossibile, Corrado Formigli, grazie mille, e quindi l'appuntamento è con Piazza Pulita sulla 7. Grazie Corrado. Grazie, grazie. Ciao. a voi e ai radioascoltatori. Bentornati a RadioTube. Come sono, sei saranno, professionale. Saranno grandi momenti. Grandissimi. Il prossimo quarto d'ora è un quarto d'ora molto importante per me, perché finalmente RadioTube sarà una trasmissione molto seria, perché sì, abbiamo un... abbiamo il mio conduttore preferito di Radio 24. L'hai detto a tutti. Da Nicoletti in poi l'hai detto a tutti. L'ho detto a tutti. L'hai detto a tutti. L'ho detto a tutti, ma questa volta è vero. Ah, saranno contenti gli altri. Adesso li richiamiamo tutti. Potete chiamare Oscar Giannino. Sì, ma Pardo. Anche l'hashtag. Sì, come la... Cancelletto vampate di calore. Te la sei preparata per anni questa. Ebbene sì. Io ci sto condividendo il microfono. Ma io mi dispiace che non ci sia uno streaming, una telecamera. Io vedo cose che potrò raccontare anche ai miei nipoti, ma... Ma dai, partirei... fai una presentazione seria. No. Allora, io partirei solo con il video, che poi è un audio, che poi è un video più virale della settimana. Okay. È assolutamente... Noi parliamo di video virali. Più di questo non ce n'è. Perché finalmente abbiamo... risolto un dilemma, il dilemma che attanagliava tanti italiani. Volevamo conoscere, lo so che non è bello parlare della sessualità delle persone, però dei cani forse sì, perché finalmente sappiamo qualcosa di molto intimo che riguarda il presidente Berlusconi e che riguarda Dudu. Dudu è da buon padre, da buon uomo di quella famiglia, insomma, visto che recentemente paghi era in calore, ci ha provato, è normale. Ma che vuol dire che ci ha provato? Voglio dire, quella è femmina, pure figa. Ma che vuol dire che ci ha provato? L'ho visto che approccia con la mia cagnolina. Allora, Dudu non è gay, lei era l'onorevole Michaela Biancofiore col suo cane. Daniele Bellasio si sta sentendo male dal ridere, soprattutto. Sì, perché non l'avevo sentito. Soprattutto può condividere il microfono con Giuseppe Cruciani. Oh, il ragazzi, mio conduttore preferito di Radio 24. Non esagerare, che adesso ti sei inimicata qualcuno, insomma. Tutti gli altri, quelli l'ho detto. Sì, peraltro ci sarei anch'io. Ma lo sai qual è la frase più sorprendente di quello che ha detto la Biancofiore prima? Non è tanto la questione dell'accoppiamento tra Dudu e Paghi, come diavolo si chiama il suo cane, è il fatto che dice: beh, Dudu, sapete, in quella famiglia lì la mascolinità, no, non ha detto proprio così, però insomma, da buon maschio di famiglia è uno che ci prova con le donne, no? Giuseppe, ma allora noi parliamo di video virali a RadioTube, più virale di te non ce n'è. Tu cosa controlli? Quando controlli? Controlli se un video viene ripreso in rete? Se... In questo caso si parla di audio, dici? Sì, ma insomma, in generale poi dici sì, video? Sì. Ma moltissimo, anche se poi ovviamente non è che tutto può essere mandato. Ci sono tra l'altro delle cose virali incomprensibili, ci sono dei video che sono cliccatissimi, che sono Matano, per esempio, il mitico Frank Matano. Beh, come, perché? Beh, io trovo delle cose pazzesche, trovo una cosa pazzesca. Ogni tanto c'è lui che suona, canta, fa delle cose normali, milioni di click. Te lo spieghi tu? No. Io ogni tanto mi rispondo che non ho l'età, ma a tra volte... Tra l'altro Cruciani su Twitter è più buono. Mazzo, sì, perché poi quando qualcuno si arrabbia con lui, lui gli risponde io ti amo. No, infatti, perché lui conosce la netiquette. No, lo sai perché? Perché in realtà non puoi, cioè non mi posso sfogare su Twitter, altrimenti poi che mi resta la sera? Non è che sono infinito, non è che la cattiveria è infinita, dura tutta a la giornata. A parte che secondo me di cattiveria ne hai poca tu, però comunque, diciamo, quella giornalistica su Twitter è un po'... Come dire, metti più ordine. Metto più ragionamento, cerco di... Ma quello anche alla radio, però lì proprio più ordine, secondo me. Comunque. Vabbè. Comunque Marta, io prima ero... Prima ero di Sky Arte. No, ma cosa dite? Ma cosa dite? Allora... Vabbè, intanto la zanzara va in onda? La zanzara... No, allora... Perché l'abbiamo fatto di tutti, siccome la zanzara non ha bisogno di presentazioni, dobbiamo dire. Ragazzi, è inutile, dai, su. Su Radio 24, lunedì, venerdì, 18.35. Poi anche dopo di noi c'è la Zanzara Extra, quindi poi non dovrete girare canale. Ti stiamo facendo questo lancio pazzesco. Sì, perché io da grande voglio fare la signorina buonasera, soprattutto la signorina. Io ero fan di Dudu, ma adesso sono diventata fan di Fufu. Sentite qua. Buonasera, sono Elisa. Sì, buonasera Francesco, volevo sapere se era possibile prenotare un 5-6 giorni lì da voi, perché ho un problemino di peso, diciamo. Sì. Ma c'è anche, mi hanno detto che ci dovrebbe essere anche Berlusconi? Per privacy non si dicono gli ospiti che abbiamo in casa. Però io guardi, veramente ci terrei tanto, perché il posto è meraviglioso, ma ci terrei tantissimo proprio a stare. Può stare al telefono anche mezz'ora, ma... avere una camera magari lì vicino. Non si dicono mai. Ma e posso portare un cane io? Perché so che Dudu forse viene, io ho il mio... Nessuno ha messi animali. A Fufu non può venire, quindi? Nessun animale ha messo. Ma non è che poi trovo Dudu però lì? La Maison di Relax non sono ammessi animali e bambini fino ai 12 anni. Anche questi bambini? Sono i vincoli. Animali e bambini anche? Fino ai 12 anni. Io quando ho sentito Fufu mi sentivo male. Ma avete sentito il tono iperprofessionale, teutonico di questa signorina? Certo. Cioè, è impressionante. Cioè, chiama una persona normale e dice non sono ammessi... i cani e i bambini sotto, li ha quasi accomunati, cioè i cani e i bambini sotto i 12 anni non sono ammessi. Dal mio punto di vista però in realtà, Dudu scorazza liberamente per i prati di questa villa paradiso, come si chiama. Però Fufu è bellissimo. Fufu è poco credibile come nome, però l'altro è Dudu. Allora, il talk, no? Il talk. Noi abbiamo questa domanda che ci attanaglia. Prima abbiamo chiesto anche a Corrado Formigli, ma il talk politico, secondo te? A lui due domande. Due. Allora, intanto talk politico. Il talk politico, dai. È vivo o morto? Perché fate sempre le stesse domande? Perché ne sappiamo fare solo una, capito? Cioè noi sappiamo... Siete ripetitivi. Cioè, lo so, il talk politico è morto o no? Non è più la Biancofiore, si può chiamare. Ma no, quello no, perché... Ma non è un argomento... comunque, non è morto. È evidente che non è morto. Ma come evidente? Tutti le parlano. Ma non è morto, primo perché costa meno di qualsiasi altra trasmissione. Ah, allora è vivo per questo. È vivo, lotta ancora insieme a noi, diciamo che sta attraversando un momento di ripensamento, qualche cosa se ne va, qualcosa tornerà, magari tra un anno ci sarà un altro panorama, non è più come, che ne so, 6 mesi fa quando sembrava che tutti dovessero fare il talk in ogni ora, in ogni momento del giorno. C'è una piccola fase di riflessione. Per esempio, il bravissimo Del Debbio non farà più la trasmissione che è quotidiana. Però è l'unico vero, anche a me piace. Sì, no, ma lo dico in senso ironico. Però non mi sembra che da altre parti si sia tornati indietro. Solo Mediaset ci ha un po' ripensato, relegando un po' Matrix tra venerdì e domenica. Sì. No, gli altri sono rimasti uguali. Boh, quello che piaceva a me l'hanno cancellato dopo una puntata sola, io non capisco. Ma il tuo alla radio è un talk show politico? Sì, un talk show politico. Sì, vabbè, la radio però è un'altra cosa. Ma sì, è diverso dalla televisione, dai. No, e l'altra domanda è: ma è tornato Silvio Berlusconi? A governare la televisione, non ho capito. Sì, a governare la televisione, la politica è tornata. Adesso sentiamo, no? Sentiamo come è andato perché... secondo Crozza il ritorno di Silvio Berlusconi. Sentiamo. So che se non metto Crozza ogni tanto non... No, ma stavolta ha fatto ridere. No, questa volta sì, questa volta dai, mi dai ragione. Crozza, Ballarò. Berlusconi è entrato nella sede del PD, purtroppo hanno bloccato all'ingresso l'enorme cavallo di legno che si era portato, il famoso cavallo pieno di troie. Comunque, comunque, ora la legge elettorale è impostata. Abbiamo l'Italicum, cioè l'Italicum ha il corpo del modello spagnolo, la testa del Porcellum, le gambe di Renzi, ma soprattutto ha il culo di Berlusconi. Quante parolacce stasera, però. E poi accusano me, capito? Ma quante poi prima serata, accusano, non voi. Ballarò, Rai 3, 3 dico 3. 3. Prima serata e poi rompono le palle a Mediaset per i servizi sull'uomo posacenere, eccetera. Vabbè, lasciamo perdere. L'uomo posacenere, però me lo sono perso, vi devo far raccontare cos'è. La prossima puntata. Quindi allora, Berlusconi è tornato o no al centro della politica per colpa o merito di Matteo Renzi? Ma perché parlate di politica in questa trasmissione? Certo, cioè, scherzando, sesso e politica. Cioè, io cerco di parlare di sesso, lui cerca di parlare di politica. Sesso, politica, ogni tanto calcio, ma oggi lo lasciamo fuori. Ma non lo so, sì, certo, ma non per merito, perché già c'era prima. Renzi ha certificato quello che era evidente a tutti, che non si può tenere fuori dal dibattito uno che ha quei voti nei sondaggi e quella pattuglia parlamentare. È ridicolo, cioè, per cui certo che non è che è tornato, c'era già prima. Andiamo, Renzi ha messo il bollino. E fare questi social network come fa Berlusconi per interposto staff, partito, secondo te funziona? I social network di Berlusconi non hanno mai funzionato. Quelli che gravitano intorno a Forza Italia sono partiti in ritardo e poi siamo rimasti a Gogol, secondo me, da questo punto di vista. Oppure ecco la mia intervista di oggi a Il Giornale. Sì, esatto. Di solito è così, sì. Comunque la comunicazione sull'Italicum è disastrosa, voi parlate molto di comunicazione. Beh, ragazzi, ma come si fa a chiamare una cosa Italicum? E questo ci ho pensato anch'io. È il paese dei mostri. Esatto. Cioè Porcellum, Mattarellum, no, ma stavolta Italicum. Ufficiale, l'ha detto Renzi Italicum, no? Sì, l'ha detto lui, l'ha detto lui. Tu come l'avresti chiamata? Ma no, ma in qualsiasi modo, ma perché bisogna chiamarle in un? Ma perché in Italia si chiamano le leggi elettorali? C'è un paese, che in Francia, non è che la legge elettorale a doppio turno ha un si nome. Si chiama Hollandellum. Che ne so, oppure, che ne so, Mitterrandellum, chi l'ha fatta, Chiracellum, no. Valéry, tipo. No, ma non c'è, cioè, questa è una questione di comunicazione fondamentale. Poi la gente per forza si incazza con la legge elettorale, perché se lo chiami in questo modo ti devi incazzare per forza. Ti occupate di cazzate, per ma sì, certo. Ma la domanda è, Giuseppe Cruciani la guarda la televisione? No, sì, la guardo molto in streaming, la guardo dopo, guardo delle cose di calcio, delle trasmissioni di calcio, calciomercato, tiki taka, le mie trasmissioni di calcio preferite, poi guardo quella dell'altro mio conduttore di radio preferite di Radio 24, cioè, esatto. Tutti convocati weekend, poi che guardo talk pochi. Quindi è morto. No, perché se non la guardo io è morto, è il contrario. Ho capito, ma se tu che sei un giornalista che si occupa di quello, manco tu lo guardi. No, ma riguardo poco perché non mi va di stare alle 9 di sera davanti alla televisione a guardare servizio pubblico. Vabbè, cioè, quello che preferisci però tra i talk show politici qual è? Quello che preferisco tra i talk show politici? No, veramente tutti e nessuno, cioè, santo, sono tutti praticamente tutti uguali. Mi piace molto l'interazione che c'è tra il conduttore e gli ospiti, per cui da questo punto di vista quello di Santoro ancora ha un senso, diciamo, ha un senso. Perché mi piace molto questa interazione qua, e la scelta degli ospiti che è sempre mirata a creare un certo tipo di chimica. Tu sei mai andato a Santoro? No, non sono andato. Mi invitò l'anno scorso un paio di volte, ma non sono andato perché è complicato per me andare perché? A quell'ora lì. Per l'ora. Certo. Però ci andresti, lo sfideresti. Ma che vuole Telese che mi chiama? Cioè, non lo so, Parenzo? Ecco qua, c'è il telefonino. Io, tra l'altro. C'è il telefonino, così sì, lo allora, in diretta, no? No, non c'è streaming, se no vedreste io e Cruciani abbracciati. Ecco, perché questo è il quindi, vero momento di Radio TV. Sì, no, sto cercando di portare via il microfono a Cruciani. Telese, sono impegnato, non ti posso rispondere, capito? E anche... Sì, e Parenzo la prossima, quindi. Io, ma avevamo detto che io ero il Parenzo della Cagnola, no? Quando tu vuoi fare la trasmissione in trasferta al telefono che non da si Londra. Sente. Cioè, da non da sei Londra. Il Parenzo, cioè no, tu sei l'uomo posso scegliere della Cagnola. Allora, questa facciamo bello, una cosa, però. Adesso io vi ascolterei per altre 7-8 ore, soprattutto vi guarderei condividere lo stesso microfono per altre 7-8 ore, ma purtroppo dobbiamo fermarci, abbiamo una piccola pausa. Traffico. Nella quale io mi farò spiegare cos'è l'uomo posso scegliere. Poi lui fuma. No, Viva Sky Arte no, Viva Sky Arte quando conduce lei. Sì, e anche la Zanzara su Radio 24. A presto. Ciao. E adesso so cos'è l'uomo posa cenere, ma non lo commenteremo. Sappiamo, non lo possiamo non dire. Non possiamo dire. Però... Perché siamo in fascia protetta. Io mi sento molto solo, non condivido più il microfono con Cruciani. Facile fare ascolti così, Cagnola. Però. Sì, infatti. Proprio noi ci ma piace. Ma non è che mi vuoi sostituire? Mi hai scoperto. Vabbè, insomma, completiamo questa puntata. No, facciamo una cosa, parliamo d'amore. Beh, ecco, visto che abbiamo parlato dai, di sesso, parliamo di amore. Abbiamo parlato di sesso, quindi abbiamo detto le parolacce. Tu, ma no, ma sei tu che dici sempre che sei un uomo romantico. Io ho scoperto una cosa romantica per te, in totale anteprima. Allora, facciamo così, raccontamelo dall'inizio, non la fine, visto che si parla di amore, preferisco immaginarla. Noi parliamo di... Allora, aspetta, parentesi. Ricordiamo i nostri account e l'hashtag di RadioTube perché siamo un po' indisciplinati. Allora, account allora, Twitter. Cancelletto, parto dall'hashtag. RadioTube. Account di Twitter. @MartaCagnola, a memoria, non leggo più neanche, persino il mio, che è quello che dimentico più spesso, @DiBellasio. E poi vorrei ricordare anche un'altra cosa che non facciamo mai, c'è cioè il podcast di RadioTube. Ah sì, ma io, no, invece... Tu sei iscritto no, al podcast di RadioTube? Assolutamente, di tutti. Io devo dire che già... Lo facevo, adesso lo faccio ancora di ancora più. Ancora con più. Poi adesso ho scoperto la mia posizione preferita alla radio, cioè in piedi. E abbracciato a Cruciani. No, quello adesso mi manca molto. Prossima puntata Parenzo. Abbracciato. RadioTube parla d'amore. D'amore. Amore oggi. Oggi. Sai cos'è amore oggi? Allora, sì, non l'ha visto ancora nessuno, l'abbiamo visto in pochissimi, abbiamo avuto questa occasione di vederlo, scoprirlo in anteprima. Potrei scommettere chi c'era con te. Non lo svegliamo, ma secondo me ci azzecchi. Abbiamo solo un trailer, qualche secondo per scoprire cosa sarà Amore Oggi e poi vi spiegherò perché è interessante per RadioTube. Una commedia fuori dagli schemi, firmata Sky Cinema. L'unica cosa che mi sento di prescrivervi è una bella vacanza. Un San Valentino così? Non è una storia bellissima. Non l'hai mai visto? Amore Oggi, prossimamente su Sky Cinema. Andrà in onda su Sky Cinema 1 HD il 10 febbraio e poi il 14 febbraio San Valentino tornerà in onda su Sky Cinema Passion. È un film, quindi non si dice più film per la TV nel momento in cui la qualità cinematografica c'è, e ormai sappiamo che la qualità cinematografica spesso in TV ormai si trova. Sì, e il anche problema è che al cinema inizino a fare qualcosa che assomiglia alla TV, perché ormai sì. Ma vabbè, qual è la particolarità? Sì, ma qual è la particolarità? Chi ha realizzato questo Amore Oggi sono intanto due registi che si chiamano Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, che hanno 27 e 28 anni. Ah però. Sono diventati famosi su YouTube con dei video politici che sono stati condivisi milioni di volte. Il più famoso era Inception Berlusconi, infatti loro sono noti come quelli di Inception, le produzioni Inception. Insieme a Giancarlo e Giuseppe ci sono Marco Lupoangioni e Daniel Franchina. Hanno realizzato questo film perché Sky ha deciso di investire su questi ragazzi giovanissimi, presi dalla rete. Ci ha messo 450.000 euro, dei quali 100.000 mega pizza fighi, ma non poco, è certo, dei quali 100.000 solo per la parte creativa, cioè solo per le idee, e devo dire tanto di cappello, mi sembra un'ottima idea. Intanto abbiamo chiesto al direttore creativo Sky Cinema, Roberto Amoroso, com'è nata questa decisione. È una decisione che noi cerchiamo di fare in tutti gli ambiti, cioè quelli di fare una sfida al sistema delle cose come si sono sempre fatte, quindi cercare di trovare nuovi modi di produrre, e questo lo facciamo nelle produzioni più grandi, cercando magari tematiche scottanti o che le altre televisioni non frequentano, e in questo caso era una sfida sul modello produttivo. Budget 450.000 euro, per chi non si rendesse conto, per chi non frequentasse questo mondo, è veramente poco? Sì, è almeno un quinto di quello che costa un qualsiasi film. 450.000 euro, che è un quinto di un film, verrà mandato in onda il lunedì sera, che è la serata quella dei filmoni, per intenderci, su Sky. Quindi ci hanno messo dei soldini, hanno preso questi giovani dalla rete e hanno fatto un grosso evento, quello che sarà un grosso evento. Quindi immagino che tutti i ragazzi che fanno i video su YouTube sperando che diventino virali, in un certo senso aspirino a tutto questo, perché che poi è la rete che irrompe in uno strumento più tradizionale e lo fa da due punti di vista: quello creativo, perché le storie sono particolarmente d'attualità, perché le storie d'amore, cioè il ragazzo ciccione che decide di diventare bellissimo per riconquistare la fidanzata, il calciatore gay che non vuole fare coming out, cioè il ragazzo che si innamora di una ragazza vista per caso e cerca di trovarla attraverso i social network, però poi viene conquistato dalla TV brutta e cattiva che ne fa una sorta di Truman Show. Ci sono un sacco di spunti che sono proprio molto tipici dei video virali della rete. Devo dire che è difficile parlare di una cosa che ancora non si è vista, ma i meccanismi sono esattamente quelli dei quali noi parliamo più o meno in ogni puntata. Video virale, qualcosa che colpisce il pubblico, e questa volta sono dei ragazzi molto giovani a farlo, e su di loro ha scommesso la televisione tradizionale. Tra l'altro loro fanno questi video di satira politica, quindi per loro è stato buffo dover parlare d'amore, l'hanno fatto in maniera molto particolare. Ne abbiamo parlato con uno dei due registi, che è anche attore, insomma, fanno tutto ovviamente, perché non ci sono gli apparati produttivi del grande cinema, ma il risultato è veramente lodevole. Giuseppe G. Stasi. Cosa avete provato quando vi è stato detto provate a fare un film? Subito ci siamo chiesti che genere avremmo affrontato, poi sono arrivata subito la risposta dal committente: è un film d'amore. All'inizio c'è stato un po' di panico, perché proprio perché magari se ne siamo giudicati cinici, almeno io e Giancarlo, noi registi, dai nostri compagni Marco e Daniel Franchina, perché non amiamo le storie d'amore. Poi insomma c'è stata anche un'altra frase che è arrivata da Sky: a modo vostro. E questo ci ha dato anche un po' l'incentivo a trovare delle storie che fossero dei ribaltamenti anche delle storie abituali d'amore, fortemente ancorate alla realtà, e con uno spirito, non dico nuovo, quanto un po' più diverso, anche un po' più libero. È vero, la situazione in Italia è abbastanza apocalittica da questo punto di vista, però anche riuscire a vedere queste storie, il precariato, l'omofobia, il culto della persona, i media, eccetera, da un punto di vista anche un po' più sarcastico, perché in Italia si tende a considerare le storie ridicole ridicole, le storie tristi tristi. C'è anche un modo di raccontare storie serissime in maniera un po' più leggera. Quindi irriverenti, sarcastici, che è un po' la cifra spesso della rete. Ce li rivedremo. E poi ispirazione delle serie americane. C'è tutto. Sai, posso dire una cosa? Siccome questa trasmissione si occupa di robe nuove, di innovazione, come abbiamo appena parlato, tu lo sai che Nova? Sì. L'inserto di Luca De Biasi, il Sole 24 Ore. Questa domenica innova ancora e fa un esperimento simile a quello di cui abbiamo appena parlato, cioè mettere assieme i mezzi più tradizionali, la carta di un giornale, con i mezzi più nuovi, lo smartphone. Quindi tu prendi la carta del giornale, che come sempre sarà fatto benissimo da Luca e il suo team sugli argomenti della rete, dell'innovazione, e poi con il tuo telefonino quel giornale lo fai diventare qualcos'altro, un giornale aumentato con altre informazioni, cose da vedere, insomma quello che stiamo facendo noi qui: vedere, sentire, ascoltare, raccontare, parlare con tutti gli strumenti vecchi e nuovi messi assieme. Forse questa è l'innovazione. Forse è anche il modo per salvare i giornali che insomma in questo periodo stanno cercando di capire in che direzione andare. Cambiare, Nova, cambiare. Questa domenica aumenta. Dai, diciamo ormai alla fine è finita. Lo dici tu però. Lo dico, è la 17ª puntata, era la 17ª puntata era. Di questo Radio Ci vediamo alla 18ª. Con Posacenere. Lascio a te il saluto. Chi salutiamo per concludere Radio Tube? David Parenzo. Ah, la prossima volta così vogliamo viene. David, dai, alla prossima puntata.